io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Si può fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 11, un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali di oggi, perché non avesse già sentito la nostra rassegna stampa più approfondita un'oretta fa. Poi cominceremo dopo il giornale radio delle 9 con il primo ospite di oggi. Ve lo dico subito, avremo il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti per parlare con lui di alcuni importanti dossier. Naturalmente vedremo anche su Expo, ma i dossier importanti sono il disegno di legge sugli ecoreati atteso, che dovrà tornare per un altro passaggio alla Camera. Qualcuno parla di un regalo ai petrolieri, poi la legge sul consumo di suolo e altre questioni. Se avete domande per il ministro dell'ambiente potete scrivercela al 349-238-6666. Più tardi apriremo anche il numero verde per la diretta, naturalmente, oppure sui nostri social, Si può fare trattino Radio 24, la pagina Facebook, oppure su Twitter, se volete interagire da subito con noi in tempo reale, l'account è Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Adesso cominciamo coi giornali, vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Allora, cosa c'è sui giornali di oggi? Le parole di Mattarella sul egoismo dell'Europa nei confronti dei migranti, ma poi anche un po' di politica interna con la manifestazione del Movimento 5 Stelle per il reddito di cittadinanza, e anche un'importante intervista al ministro dell'economia Padoan sul tema dei rimborsi delle pensioni, della perequazione delle pensioni. Vedremo tra un attimo. Cominciamo con il Corriere, che titola così: Mattarella, basta egoismi sui migranti. L'Italia chiede all'Unione Europea un impegno comune, ci vuole meno egoismo per affrontare in modo positivo il dramma delle migrazioni. È questa la frase del Presidente della Repubblica che ha fatto rumore nel giorno della festa dell'Europa, che celebrava i 65 anni dalla dichiarazione di Robert Schuman, grazie alla quale nel 9 maggio del 1950 si aprì la strada all'integrazione europea. L'Italia chiede all'Unione un impegno comune per risolvere il dramma dei profughi. Ieri un'anticipazione di Repubblica parlava di una bozza di documento della Commissione europea che prevederebbe una ripartizione obbligatoria nei vari paesi membri dei profughi, ma ci sarebbe già una levata di scudi in diversi paesi contrari a questa forma appunto di ripartizione dei profughi in tutta Europa. Andiamo su Repubblica per un altro titolo che riguarda invece, come dicevamo, la manifestazione del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza. Repubblica scrive: sul reddito di cittadinanza, prove di intesa Movimento 5 Stelle, ribelli del Partito Democratico. Cosa succede? Succede che intanto ieri migliaia di persone, 50.000 secondo gli organizzatori, si sono ritrovate nel raduno umbro del Movimento 5 Stelle, incentrato sulla proposta di dare 780 euro come reddito di cittadinanza agli incapienti e ai disoccupati. Su questa ipotesi aprono il leader di SEL Nichi Vendola e anche della minoranza PD Speranza. Anche il ministro Boschi fa sapere che di essere disponibile al dialogo. Vediamo velocemente l'intervista di Speranza, che è l'ex capogruppo del PD, adesso leader della minoranza a tutti gli effetti del PD, che apre a questa proposta di Grillo e quindi si inserisce un'altra spina nel fianco di Renzi, spine che fino ad ora non sono state più di tanto dolorose, perché anche il passaggio dell'Italicum è andato via liscio. Scusate, mi sta andando via la voce. Vediamo dunque. Speranza dice: proposito del reddito di cittadinanza, il più grande partito del centro-sinistra, il PD, deve dare una risposta ai ceti sociali più deboli in maggiore difficoltà. Ritengo sia prioritario, solo così si costruisce l'inclusione sociale. C'è però una differenza con Grillo. La nostra proposta parla di una misura universale di contrasto alla povertà che esiste in tutta Europa, tranne che in Italia e in Grecia. Il reddito minimo di cittadinanza proposto dai grillini, invece, dice Speranza, è per tutti in un modo indifferenziato ed esiste in questa maniera soltanto in Alaska. Quindi diciamo prove di dialogo, ma anche con differenziazioni interne. Molti giornali riportano la foto della parata di ieri dell'esercito russo, la parata senza leader e la sfida di Putin, così scrive per esempio il Corriere. Cosa si è trattato di è un'affollata solitudine quella di Putin, diciamo di la scaletta della foto, quella che nel giorno in cui si celebrano i 70 anni della vittoria della grande guerra patriottica, le assenze dei leader occidentali hanno fotografato l'isolamento della Russia. Molti giornali scelgono di mettere questa foto in prima pagina. Invece, sempre a proposito per esempio di Russia che sarà uno degli arbitri di un'altra partita, quella della richiesta italiana di una missione ONU per fermare i barconi dei migranti e diciamo intervenire al largo delle acque ma anche sulle coste della Libia. Perché la Libia, scrive la stampa, più vicino il sì alla missione delle Nazioni Unite, e questa è, diciamo, sarebbe una buona notizia. Vediamo cosa scrive la stampa, di che si tratta. Fino a mercoledì doveva essere una teleconferenza, poi c'è stata un'accelerata improvvisa e Federica Mogherini, alto rappresentante europeo per la politica estera, volerà domani a New York per illustrare la strategia libica dell'Unione Europea al Consiglio di Sicurezza dell'ONU su invito della Lituania, che in questo momento è presidente di turno dei 28 paesi europei. Ci sono segnali di ottimismo sul fatto che già entro la settimana che viene ci potrebbe essere una risoluzione al Palazzo di Vetro che autorizzi che cosa? Una missione europea nelle acque nordafricane per fermare i barconi dei trafficanti. Russi e cinesi, ecco il punto, non ostacolerebbero il progetto che, se approvato, avrebbe probabilmente un comando italiano. Russi e cinesi sono i paesi che hanno il diritto di veto dentro il Consiglio, dentro l'ONU, dentro il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e quindi è importante che non mettano il veto, altrimenti non se ne fa nulla. L'idea elaborata dalla Mogherini insieme alle diplomazie europee consiste nell'affrontare l'emergenza dei migranti nel Mediterraneo con una risoluzione ispirata al capitolo 7 della Carta dell'ONU, strumento che potrebbe autorizzare una azione di forza per sbaragliare i trafficanti di uomini, cioè l'uso della forza per bloccare le navi, l'uso della forza probabilmente sui barconi abbandonati oppure se intercettati prima che vengano utilizzati per queste finalità. Sulla stampa c'è un'altra foto notizia, un'altra parata totalmente diversa, una curiosità che viene dalla Francia. Cinesi in gita premio invadono Nizza. La foto ritrae migliaia di dipendenti della Tien's Group, che è un'azienda di biotecnologie cinesi, tutti con la divisa aziendale bianca, fotografati sulla Promenade des Anglais a Nizza, perché il magnate proprietario di questa azienda, la Tien's, ha invitato tutti i suoi 6.500 dipendenti per un fine settimana tra Parigi e Nizza per festeggiare i 20 anni della sua società, e ha speso soltanto 13 milioni di euro per fare questa cosa qua. Cioè, così dicono i giornali francesi, la cifra che ha investito è 13 milioni di euro che vanno chiaramente tutto a ingrassare il turismo, il settore del turismo francese. Pensate la generosità di questo capo azienda che ha portato tutti i suoi dipendenti per una settimana in Francia in gita premio, straordinario. Andiamo invece su un'altra notizia che abbiamo anticipato, sono le dichiarazioni del ministro Padoan sul tema delle pensioni e della restituzione del blocco Istat. Sul Messaggero, l'intervista, se la volete vedere integralmente, parla anche di altri argomenti. Intanto fa una premessa Padoan, dice: voglio sottolineare che se si dovesse ripristinare totalmente l'indicizzazione sulle pensioni, l'Italia si troverebbe a violare simultaneamente il vincolo del 3% e l'aggiustamento strutturale e anche la regola del debito. Quest'ultimo, che sta iniziando a scendere, ricomincerebbe a salire, la Commissione ci metterebbe immediatamente in procedura di infrazione. Questo è il messaggio che forse non si è ancora capito, come dire, messaggio preventivo, occhio, perché non restituiremo tutto quello che la Corte Costituzionale in qualche modo ha detto che andrebbe restituito, o comunque non restituiremo tutto, perché altrimenti andiamo incontro a una procedura di infrazione e non ce lo possiamo permettere. Ciò che la sentenza della Corte dice, prosegue Padoan, è che le misure sulle pensioni vanno prese tenendo conto della progressività e della temporaneità, e questo è esattamente il principio che ci sta guidando. Il quanto della restituzione non lo dice Padoan, il quando però sì, dice quello che posso aggiungere è che questa scelta sarà definita molto presto. Probabile che già entro la settimana prossima in Consiglio dei Ministri venga varato questo provvedimento. Sul tema delle pensioni c'è chi la vede totalmente in maniera diversa, per esempio Libero, che scrive: fuori i soldi delle pensioni, facciamo causa a Renzi. Il titolo di prima pagina: il premier rinvia dopo le elezioni, questo è il punto che fa, diciamo, arrabbiare Libero, la decisione sugli scatti bloccati illegittimamente. Solo allora, dopo le elezioni, annuncerà che non ha alcuna intenzione di rimborsarli. Forza Italia e Fratelli d'Italia pronti a mettere a disposizione avvocati per i ricorsi. Però, stando invece a quello che scrive Padoan, che dice Padoan sul Messaggero, questa notizia non ci sarebbe, sarebbe smentita, perché Padoan dice arriva la settimana prossima i rimborsi, quindi prima delle elezioni regionali. In ogni caso, Libero scrive che Forza Italia e Fratelli d'Italia mettono a disposizione degli avvocati gratis per un pool di legali a disposizione dei pensionati, i più ricchi, però diciamolo, perché è questa la questione, per far valere i propri diritti contro l'esecutivo. E invece, per chiudere velocemente sull'Avvenire, c'è una lettera di un lettore che va un po' in controtendenza. Dice: io pensionato mi autoblocco per solidarietà con i più giovani. Caro direttore, mi sono recato all'INPS e ho presentato una dichiarazione con la quale rinuncio volontariamente e definitivamente all'adeguamento dell'importo della pensione per gli anni 2012-2013 a seguito della sentenza della Corte. Spero che non ci siano difficoltà di carattere tecnico come ipotizzato dall'impiegato allo sportello. Ho preso questa decisione perché faccio parte della generazione più fortunata rispetto alla precedente e a quella successiva alla mia. E poi chiarisce: percepisco una pensione con il sistema misto retributivo-contributivo con circa 400 euro al mese in più rispetto al calcolo sulla base dei contributi versati. Dovrebbe esserci una più giusta distribuzione delle risorse. Spero che la mia iniziativa non sia una semplice goccia nell'oceano. E questo, diciamo, è un punto di vista in controtendenza. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Questo è il momento di tirare un po' il fiato, di andare a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Rilassiamoci un po', ritroviamo Armando Massarenti. Buongiorno Armando. Buongiorno, buona domenica a tutti. Eccoci qua, allora facci sognare, dove ci porti oggi? Ma guarda, potrei andare in tante direzioni diverse, ma intanto vorrei ricordare una cosa: che ci sarà il Salone del Libro a Torino, quindi che è un appuntamento molto importante, inizierà giovedì prossimo, e noi abbiamo in esclusiva una cosa molto importante, cioè per la prima volta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, racconta le sue letture. Noi abbiamo fatto per molto tempo una rubrica che qui abbiamo ripreso per l'occasione, Una vita, un libro, una vita. E Stefano Busadelli è andato a chiedere appunto a Mattarella che cosa legge, qual è il libro che lo ha formato, che lo ha forgiato, che ha forgiato i suoi valori. E magari non lo diciamo neanche, così lasciamo questa curiosità, sì, al lettore che avrà voglia di andare a vederselo. Non parla di un solo libro, peraltro, ma di più libri, anche del fatto, e vorrei sottolineare questo, che si è impegnato molto in una proprio nella recentemente ha accolto il CEPEL, cioè il Centro per la Lettura per il Libro, il Presidente della Repubblica, E anche in questa intervista a Bosadelli si capisce che lui leggeva fin da piccolo, e questa è la cosa più importante poi, no? Che la lettura inizi da piccolo, magari con i genitori che leggono ad alta voce delle belle storie. E poi va avanti e arriva poi al libro fondamentale, che invece non vi diciamo, ma che è molto interessante, una curiosità che vedrete molto, molto interessante, molto vicina proprio all'immagine anche che noi abbiamo di un'alta carica come questa. E però, andando più sullo scherzoso, sempre per il salone del libro, io ho lanciato oggi sulla domenica, sulla prima pagina, un romanzo che a mio parere è veramente notevolissimo. Daniel Kehlmann è l'autore, è un romanzo filosofico. I fratelli Friedland, è stato intitolato in italiano, in tedesco in realtà si chiamava F, che sta per fatum, cioè il fato, che è una specie di fatto casuale, quello che attraversa i personaggi di questo romanzo, ed è un romanzo assolutamente tragicomico, molto divertente, molto profondo, molto ricco di cose, che gira intorno alla crisi, alla grande crisi del 2008 e a questa idea, no? Per cui c'era la storia delle 3A, per cui sembrava che i prodotti finanziari, no, potessero, grazie a questa valutazione, essere esenti da qualunque tipo di rischio. Poi si è visto invece, ecco, che cosa è successo. Ebbene, da tutti i punti di vista, questo romanzo, che rievoca un po' i romanzi più belli del Settecento, insomma, i romanzi filosofici alla Candide di Voltaire, oppure a Jacques il Fatalista, il suo padrone ancora di più di Diderot, è una cosa rocambolesca, in cui questi tre fratelli, due gemelli più un fratello più grande, più il loro padre, che a sua volta è un autore di romanzi, che rappresentano un po' una crisi di valori generali, una crisi di certezze nella nostra epoca, e ognuno poi farà un mestiere diverso. Lui ce li racconta tutti con una grandissima ricchezza, un grandissimo senso dell'umorismo. E questo autore, Daniel Kehlmann, che sarà appunto al salone, sì, del libro, è il best seller praticamente tedesco di questo momento. Quindi, insomma, quarantenne. Un bel consiglio per la lettura in associazione tra il Domenicale e il Salone del Libro di Torino oggi, per la copertina del Domenicale. Sì, sì, sì. Tra l'altro, oggi abbiamo anche il primo dei racconti della nuova, sì, serie dei racconti d'autore, questo libricino che vendiamo a tanto zero, a un prezzo simbolico, insomma, quello di mezzo caffè, che è Camilleri, il medaglione. Ogni settimana avremo appunto questi racconti d'autore che sono molto apprezzati dai nostri lettori. Abbiamo Camilleri, che è appunto uno dei nostri più importanti scrittori italiani. Settimana prossima, peraltro, avremo invece Joe Lansdale con un racconto intitolato Fatti relativi al ritrovamento di un paginone di nudo in un romanzo Harmony, quindi già è un romanzo il titolo, diciamo. Ma tornando al numero, sì, di oggi, abbiamo poi tantissimi altri argomenti, e guarda, una specie di lancio, un piccolo indizio per arrivare poi al libro di Mattarella, perché nella stessa pagina in cui parliamo di, in cui Brusadelli raccoglie la testimonianza di Mattarella sulle sue letture, abbiamo un bellissimo pezzo di Filippo Laporta su Simone Weil, la grande filosofa, scrittrice, di cui è uscito Il viaggio in Italia, e viene fuori una religiosità molto molto vicina alle cose reali della vita terrena, eccetera. Anche questo fa pandan con il romanzo di Kehlmann di cui abbiamo parlato prima, cioè una filosofia molto vicina alle cose della vita, in questo caso una filosofia molto religiosa. Anche il romanzo di Kehlmann, peraltro, di Kehlmann ha come sottofondo, come già aveva il Candido di Voltaire, no? Questa idea della teodicea, del libero arbitrio, siamo veramente liberi, quanto questi personaggi sono veramente liberi, quanto sono schiavi della loro epoca o della loro stessa inautenticità. Però, però se volete sapere fino in fondo quali sono le letture preferite del Presidente della Repubblica, niente po' di meno che, dovete andare in edicola dove vi attende il domenicale. Grazie Armando Massarenti, noi ci ritroviamo domenica prossima, buona domenica. Ciao. Ciao Armando, noi invece ci risentiamo dopo il giornale radio, apriremo anche il numero verde, a tra poco con Si può fare. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Just for one day. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20.15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20.15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare, ben ritrovati. 800 24 00 24, vi aspettiamo naturalmente per intervenire, per stare insieme a noi di domenica mattina fino alle 11. Puntata, una bella puntata oggi, avremo tra pochissimo il ministro dell'ambiente Galletti con noi. Se avete delle domande potete cominciare subito a girarcele anche al 349 238 6666 o sui nostri social. E chi è che non ha delle domande per il ministro dell'ambiente? Scusami, cavolo. Basta aprire la finestra. È il tema più importante che ci sia. Poi avremo in studio con noi il cantautore Francesco Tricarico dalle 10 alle 11, quindi un po' di musica live. E chi è che non ha delle domande per, anche Tricarico, per Tricarico, volevo dire. E anche un percorso artistico interessante dal punto di vista del linguaggio, farà uno spettacolo teatrale, tante cose belle questa mattina. E poi il gioco. E poi il gioco. E poi cerchiamo il personaggio della settimana, come tutte le settimane. È un personaggio al quale è legata una notizia di questa settimana e noi vi diamo degli indizi e voi dovete indovinarlo. Si vince? Si vincono anche oggi biglietti per il concerto, ci sono due concerti di Enrico Ruggeri, il nostro Ruggeri, uno a Campione e uno a Roma, in date diverse, potete controllare. Stavo dicendo del collega Ruggeri, però collega, esatto, tu collega sei una parola grossa. Io sono un cretino, non si sa bene, no, forse e lui è un cantante, esatto, quindi ce la facciamo. Siamo una barzelletta. Esatto. E diamolo questo primo indizio. Il nostro personaggio di questa settimana è un indizio molto lapidario. Ha vinto, cioè diciamo che ha vinto. Perfetto. Pensateci perfetto. Un po', chi è che può aver vinto qualche cosa questa settimana? 800 24 00 24. Cominciamo? Dobbiamo cominciare subito perché abbiamo il ministro che ci aspetta. Vai. Per cominciare a vivere con gli sguardi che si incrociano a metà nello spazio della dignità. L'alba è già qua. E allora l'alba, uno splendido pretesto per sentire questo Lorenzo, questa bella canzone. È impossibile tornare indietro, mi sembra molto importante. Buongiorno al ministro Gianluca Galletti. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona domenica. Anche a lei buona domenica, grazie per essere con noi di domenica mattina. Abbiamo scelto l'alba per parlare con lei, l'alba di una nuova sensibilità, diciamo così, sui temi ambientali. Un'alba lunga che stiamo vivendo, ma che ormai insomma si annuncia giorno. Però per esempio noi in Italia abbiamo un'importante legge, partiamo da qua, la legge sugli ecoreati, che è attesa insomma da molti anni. L'Italia che ha avuto l'Eternit, ha avuto l'Ilva, ha avuto l'Acna di Cengio, però diciamo c'è stato un rinvio per una modifica che è stata fatta alla Camera, si tornerà al Senato. Qualcuno teme un colpo di spugna. Galletti, lei ci può rincuorare? Assolutamente sì, abbiamo preso l'impegno entro maggio di trasformarla in legge definitiva. È già passata, abbiamo già incominciato i lavori in commissione la scorsa settimana, che si dovrebbero chiudere nella settimana entrante, per poi la settimana dopo ancora, quindi la settimana che va dal 16 al 23, chiuderla, sì, in maniera definitiva. Quindi, questi sono i tempi che ci siamo dati. Ecco, questo ed è un impegno storico, perché quella legge, sì, è lì da tanti anni. Il nostro paese l'aspetta da 20 anni, quindi sì, siamo proprio alla vigilia di un evento che in campo ambientale definirà storico. Perché è importante questa legge? Ci dica che cosa prevede e perché è così importante per un paese come l'Italia. Perché finora non esiste nel codice penale il reato ambientale. Questo che cosa comporta? Che ogni volta che un magistrato deve colpire un reato ambientale, deve andare per analogia rispetto ad altri reati, il che diventa tutto molto più difficile. Alcune volte non ci si riesce proprio. Le prescrizioni non sono sempre adatte per quei reati che, sì, si interpretano, non sono sempre adatte per il reato ambientale. Quindi spesso, come è capitato ad esempio nel caso che citava lei dell'Eternit, si, sì, va in prescrizione. Così invece oggi abbiamo una tipologia di reati ambientali all'interno del codice penale, puniti con pene severe fra l'altro e con prescrizioni molto lunghe, perché il reato ambientale è difficile da identificare e poi presuppone processi lunghi, perché ci sono degli approfondimenti, tante tecnici, cose da molto, accertare, molto da capire, da fare, naturalmente. Senta, però, quindi, qualcuno dice che insomma il motivo per cui la legge è stata modificata alla Camera e dovrà tornare al Senato è un motivo un po' pretestuoso, diciamo è un emendamento che era stato prima inserito, poi tolto, sempre fra l'altro coi voti anche delle stesse forze politiche, tra cui Forza Italia. Lei teme che ci sia stata una qualche imboscata per una qualche motivo? Alcune parla di favori a certe lobby, eccetera eccetera, oppure non vede, diciamo, questo pericolo? Ma guarda, intanto io prima di tutto voglio portare a casa il risultato, non voglio fare della dietrologia, quindi voglio il fatto, non voglio i cattivi pensieri che mi interessano fino a un certo punto. Io fin dall'inizio ho detto, il governo ha detto che quell'emendamento che era entrato al, sì, Senato effettivamente in maniera molto anomala, era andava un emendamento tolto, sbagliato, perché puniva un reato, cioè chiunque utilizzasse una tecnica di introspezione nei mari, cioè di ricerca degli idrocarburi nei mari. Il cosiddetto Airgun. Il cosiddetto Airgun veniva punito da 1 a 3 anni. Saremmo stati l'unico paese in tutto il mondo. Allora, quella tecnica è una tecnica molto controversa, che effettivamente potrebbe, la scienza non è ancora così chiara in questo campo, causare dei danni ai grandi cetacei. Allora, noi però in Italia, sì, abbiamo utilizzato tutta una serie di precauzioni, per cui possiamo dire che quell'evento, cioè il danno ai cetacei, è ridotto al minimo, quasi escluso, poi l'esclusione non la potrà mai dire nessuno al mondo, però abbiamo adottato tutta una serie di precauzioni nel fare la tecnica di introspezione, cioè la tecnica Airgun, tale da poter appunto dire che i danni sono ridotti proprio al minimo. non aveva senso obiettivamente lasciare quella norma, anche perché sulle trivellazioni in generale noi ci stiamo battendo per avere una norma europea che è la vera risposta, perché se noi vietiamo nelle nostre acque quel tipo di tecnica e poi ad esempio, lo fanno gli altri, poi lo fanno gli altri confinanti, sì, non ha tanto significato. Allora, però, la battaglia sì, non va fatta nel nostro paese, va fatta in Europa, europeo. E noi lì la stiamo facendo in maniera molto potente. Adesso voglio fare una domanda anche sulle trivellazioni, sul petrolio, perché è un altro tema, diciamo, importante dal punto, è sensibile dal punto di vista ambientale. Però finendo il discorso di Ecoreati, quindi l'impegno per farlo entro maggio è un impegno del ministro Galletti o, diciamo, del governo? Lei sente di parlare anche a nome di... ha parlato col Presidente del Consiglio, è sicuro? Assolutamente, è un impegno del governo e della maggioranza che sostiene il governo. Perfetto, e quindi insomma non manca molto, vedremo, aspettiamo e aspettiamo questa importante legge. Sulle trivellazioni, sul petrolio, allora, leggendo qua e là dati del Ministero dello Sviluppo Economico, sembra che insomma, diciamo, la quantità estraibile nei mari italiani non sia altissima. Qualcuno calcola appunto, se questi dati sono veri, 10 milioni di barili estraibili, pari a 8 settimane di autosufficienza energetica per l'Italia, cioè veramente molto poco. Se questi dati sono veri, ne vale la pena per un paese come l'Italia, che vive anche delle sue coste, del suo mare, del suo turismo, trivellare per questo poco, diciamo, petrolio che c'è? Ma guarda, intanto è difficile dire quant'è il petrolio, perché tant'è vero che tutte queste tecniche servono per poter quantificare, no, quanto petrolio c'è nelle nostre coste. Ma il tema non è tanto, dal punto di vista ambientale, non è tanto questo. Io lo guardo dal mio punto di vista. Cioè, noi dobbiamo decidere in questo paese se quella è una tecnica che noi vogliamo, cioè un tipo di produzione che vogliamo fare o meno. Questo spetta prevalentemente al Parlamento deciderlo. Da parte mia, come Ministro dell'Ambiente, io ho delle regole che mi sono date dalla legge. Io rispetto quelle regole e le rispetto in maniera molto rigorosa. E faccio un esempio. Per fare una piattaforma di trivellazione ci vuole una valutazione di impatto ambientale. Quella valutazione di impatto ambientale dice intanto se si può fare e, se si può fare, quale prescrizione si mette in atto. Ecco, sulle prescrizioni noi siamo estremamente rigorose, cioè quello che noi non possiamo fare è dire come paese che le trivellazioni per legge si possono fare, poi quando si richiede il permesso non diamo l'autorizzazione, non diamo l'autorizzazione. Perché così diamo un messaggio sbagliato anche agli investitori esteri. Cioè, noi non possiamo sempre utilizzare l'ambiente contro lo sviluppo. L'ambiente può convivere con lo sviluppo, anzi deve convivere con lo sviluppo. Ma lei personalmente, diciamo, è persuaso che, diciamo, dalle trivellazioni, dal petrolio possa venire un contributo importante per diciamo, energetico per il nostro paese? Ma io credo assolutamente che noi oggi abbiamo bisogno di puntare prima di tutto sulle energie rinnovabili, perché quello è il futuro che abbiamo davanti. Sì. E lo stiamo facendo e arriveremo, secondo me, non solo noi, ma per fortuna gran parte del mondo arriverà ad avere un apporto delle rinnovabili predominante rispetto alle altre fonti. Ma in questo periodo di transizione noi non possiamo fare a meno di utilizzare anche le altre fonti, perché c'è poco da fare. Quando lei alla mattina va a lavorare, ci va con una macchina, io spero elettrica anche, o che ci vada in bici, sì. Ma molti ci vanno con una macchina che va con benzina. Certo, che va, allora, con un carburante, non possiamo chiudere gli occhi. A quel momento non è che noi possiamo dire non vogliamo quella fonte energetica, perché ne abbiamo purtroppo ancora bisogno. Se lo chiede a me, farò di tutto perché questo periodo transitorio sarà il più breve possibile. Senta, a proposito di andare a lavoro in macchina o in motorino o in treno, lei come va? La usa la bicicletta, Ministro dell'Ambiente, o no? Io uso molto il motorino, sto a Bologna, ammetto, uso molto il motorino, perché Bologna è una città strana, perché è un po' in salita e un po' in discesa. È vero, ci sono i colli. Ma lei il motorino come lo considera? Perché io lo considero un mezzo, diciamo, da un certo punto di vista anche ecologico, sicuramente emettere le emissioni, però è un mezzo che ingombra poco lo spazio e non occupa molto spazio, diciamo, e non crea traffico, quindi anche meno inquinamenti, diciamo, sì, inutili. Lei come lo considera il motorino? Io in città lo considero un buon mezzo di trasporto. Ripeto, il meglio è utilizzare la bicicletta. Oggi ci sono anche delle biciclette elettriche che fanno venire meno il problema polpaccio che ricordavo io prima, quello delle discese e delle salite. Certo. Infatti mi convertirò presto alla bicicletta elettrica. Mi scusi ministro, le volevo chiedere una cosa, io sono l'ignorante dei due, ma volevo avere una rassicurazione, perché mi sembra che la cosa veramente stupenda e dirompente della nuova legge sugli ecoreati sia la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, perché fino a ieri in realtà questa questione che si pagava una multa se uno inquinava, molte aziende, io avendo studiato molto l'ACNA di Cengio, semplicemente mettevano nei costi di produzione la multa che poi avrebbero dovuto pagare. Invece la cosa straordinaria che fate voi in questa legge è il fatto che uno dice: se voi avete guadagnato producendo dell'inquinamento, dovete ridarci tutti i soldi che avete fatto in questo modo e noi useremo quei soldi per la bonifica del territorio. È così? È assolutamente così, è un fatto molto innovativo e rientra proprio in quello che dicevo prima, mancando il reato ambientale. Prima tutte queste cose non erano fattibili, esatto. Oggi invece sono fattibili, quindi ci aiutano anche le bonifiche, che è un grande problema che noi abbiamo, quello delle bonifiche, sì, dei territori dismessi da imprese inquinanti. È un problema enorme che abbiamo, perché ha anche un risvolto ancora peggiore, perché noi lasciamo delle aree molto vaste anche in zone qualificate. A proposito di questo, ministro, in attesa delle nuove previsioni della legge sugli ecoreati, la situazione dell'Ilva che punto è per quanto riguarda la bonifica? Siete riusciti già ad utilizzare anche i soldi fatti negli anni illecitamente, secondo la magistratura, dalla famiglia Riva sull'Ilva? Per la bonifica. Noi abbiamo anche con l'ultimo, abbiamo fatto anche un ultimo decreto qualche mese fa, per poter recuperare 1,2 miliardi sequestrato alla famiglia Riva, abbiamo attivato tutte le procedure per avere quei soldi da investire nell'ambientalizzazione dell'Ilva, cioè per la realizzazione del cosiddetto piano ambientale. Per e quanto, quanto tempo ci vorrà, ministro, secondo lei, per poter impiegare questi fondi? Averli è molto difficile dirlo. Io credo tempi molto brevi, però non mi faccia prendere un impegno su questo. Ma mi scusi, ma la confisca non la gestisco direttamente io. Ma la confisca dei beni è retroattiva? Ovvero se oggi uno viene condannato per inquinamento, scatta la confisca dei beni o solamente per i reati compiuti da oggi in poi? No, questi sono soldi, quelli dei Riva, non sono soldi sequestrati anche per altre ragioni. No, ma io non parlavo di Riva, parlavo in generale. Ambientale. Ah, no, sì, a proposito della legge, diciamo, della nuova legge. Un attimo, i soldi ci può essere, in questo caso non è, adesso io non sono un giurista, sono un economista, quindi faccio fatica su questo tema. Oggi comunque tenga presente che il sequestro cautelativo in caso di un reato è sempre possibile, sì. Però si tratta di un sequestro cautelativo. No, ma il sequestro cautelativo è una cosa, la confisca dei beni è la vera novità di questa legge, secondo me. Nel caso dei Riva era un sequestro. Certo, certo, certo. Vedremo poi quando sarà approvata la legge, anche nella versione definitiva, cosa esatto, prevederà da questo punto di vista. Novità. Senta, ministro, un'ultima cosa prima di salutarci, a proposito di un'altra legge che aspetta, quella sul consumo di suolo. Anche questa è una legge che ha mosso i primi passi all'inizio della legislatura. Anche questa è una legge molto attesa, ci sono delle regioni che, come ad esempio la Lombardia, che si è già mossa, diciamo, in autonomia su questo. Molti aspettano, perché insomma i dati recenti per esempio dell'ISPRA di qualche giorno fa sono terrificanti, si può vederla in tanti modi, cioè un campo di calcio ogni pochi secondi, una spazio ancora più grande in una giornata, cioè si sta continuando, nonostante gli allarmi, a cementificare in questo paese. Però la legge è in attesa. La legge è adesso proprio alla Camera, in discussione, sono stati presentati gli emendamenti, io credo che nei prossimi mesi andrà avanti, io lo auspico fortemente. Prima stavo parlando delle bonifiche, no? Sì. Noi siamo in una condizione kafkiana quasi, perché abbiamo queste aree molto vaste e su cui non riusciamo a fare le bonifiche fino in fondo, stiamo andando avanti, le stiamo facendo, facciamo molta fatica, e quindi quello è suolo già impegnato, no? Già costruito. Sì, è quello che bisognerebbe recuperare. Parte, esatto, andiamo dall'altra parte e costruite di nuovo. Quindi bisogna che ci dotiamo di una legge molto restrittiva nell'utilizzo di nuovo suolo. Intanto andiamo avanti con le bonifiche. Io credo che oggi ci siano i presupposti per arrivare a una legge sul consumo del suolo valida per il nostro paese. Però, tenendo in considerazione, lo dico da ministro dell'ambiente, che la legge è giustissima, ma anche qui dobbiamo stare attenti di contemperare tutti gli interessi in campo, perché noi non possiamo dire solamente no, non costruiamo più, perché è chiaro che una parte importante della nostra economia è proprio quella della edilizia. Quindi dobbiamo accompagnare questa anche con provvedimenti che aiutino il riuso delle ecco, abitazioni. A questo proposito, però, mi viene da fare energetico, sì, tutte queste cose. Sì, sì. Mi viene da fare una domanda proprio per questo, per non mettere, diciamo, un freno anche all'economia legata alle infrastrutture e insomma, al bisogno abitativo in questo paese. Una legge sul consumo di suolo dovrebbe essere accompagnata da una cifra che stanzia degli incentivi a favore di chi recupera il patrimonio edilizio esistente, che lo sappiamo è un po' più, a volte addirittura più oneroso, più costoso che non costruire ex novo, cioè ci vorrebbero insomma degli incentivi. Bravissimo. È proprio questa la chiave di lettura, cioè se noi da una parte dobbiamo vietare qualcosa, dall'altra parte dobbiamo rendere più semplice il riuso e il riutilizzo di quello che abbiamo già, che non è questione solo di incentivi fiscali, un incentivo fiscale è sempre per l'imprenditore e per il cittadino il benvenuto, ma deve essere accompagnato anche da una serie di semplificazioni urbanistiche, no? Oppure di incentivi urbanistici. Io posso fare molte cose in quel campo come legislatore. Ecco, bisogna riuscire bene a scambiare queste due cose e allora viene una legge equilibrata che, ripeto, non penalizza una parte importante della nostra economia. Su questo però i tempi non se la sente, diciamo, si è esposto sulla legge sugli agroreati a maggio, ma sul suolo no. Sul suolo io credo no, cioè, faccio finire, nel suolo nel senso che io spero che i tempi siano maturi per poter arrivare alla definizione della legge. Io penso che la Camera sia già nelle condizioni di andare in aula prima dell'estate, poi passerà al Senato e lì spero e mi auguro che ci siano tempi brevi. Io potrebbe essere la fine dell'anno, siano i più brevi possibili. Va bene, grazie al ministro Galletti, buona grazie. Domenica. Grazie ministro, anche a voi. Grazie buona per domenica. Essere stato con noi. Insomma, noi teniamo alla mente queste due date: maggio per la legge sugli agroreati, forse fine anno o anche un po' prima per quella sul consumo di suolo. Cominciamo il conto alla rovescia. 800 24 00 24, ci fermiamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, e soprattutto volevo fare gli auguri a tutte le mamme. Non so se tu l'hai fatto prima, ma oggi è la festa della mamma. No, io non posso esimermi da fare gli auguri alla mia mamma e a tutte le mamme d'Italia e del mondo. Va bene, giusto, ed è importante. E poi volevo raccontare un'altra cosa che mi agita molto, del motivo per cui prima mi hai detto ma sei agitato. Sì, sono agitato perché il 12 maggio, ovvero martedì, andrò a Bruxelles, addirittura al Parlamento Europeo, a presentare un nuovo video che ho fatto sul matrimonio egualitario assieme all'europarlamentare Daniele Viotti, e quindi alle 10 del mattino sarò a Bruxelles in una conferenza stampa a presentare questo video sul fatto, diciamo, della trascrizione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso, che va assolutamente fatta anche in Italia, perché sennò si sta appoggiando, diciamo, la poligamia. Ma lo spiegherò in questo video, che poi sarà anche sul mio canale di YouTube. La poligamia dopo. Fantastica, sì, è così. È molto interessante, bisogna vedere il video per capire qual esatto. è il meccanismo. A te te l'ho raccontato ieri, però comunque curioso. Sarà possibile vederlo sul mio canale YouTube, che è Carlo Gabardini, dopo averlo presentato, perché prima il Parlamento Europeo, e quindi sono agitatissimo perché non so nemmeno come vestirmi, quindi se avete anche da consigliarmi come ci si veste al Parlamento Europeo, io sono qua tutto orecchi. Appena salutato il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, al quale non abbiamo fatto una domanda specifica sulla Terra dei Fuochi, ma ne parleremo tra poco con un'iniziativa che viene proprio da Casal di Principe e che riguarda anche gli Uffizi. Questo tra poco, adesso qualche ascoltatore. Abbiamo Guido che ci chiama da Varese. Buongiorno Guido. Guido, buongiorno, ci sente? No, non ci sente. Allora andiamo con Stefano da Bergamo. Stefano, ci sente? Non ci sente pronto? Neanche Stefano. Sì, oggi non ci pronto. Sente nessuno. Stefano! Pronto, pronto. Pronto. Stefano da Seregno, non da Bergamo. Ah, per quello che hai fatto la pausa, sì, hai detto sarà un altro Stefano. Ha ragione, ho sbagliato io, ho visto male. Stefano, su cosa volevi intervenire, Stefano? Sul quiz del personaggio misterioso. Perfetto. Perfetto. Chi siamo è, secondo te? Marco Mengoni. Marco Mengoni, la notizia qual è legata a questa settimana? No, non mi ricordo. Grandissimo, non ti ricordi? L'ho letto sul cellulare di fuggita, ma ci ho provato che ha vinto Sanremo, quindi ha vinto qualcosa. Ha vinto. Due anni fa ha vinto Sanremo. Comunque, ieri, se non vero, venerdì faceva aveva il concerto a Milano. Mengoni, che, non so è se sempre una notizia questa. Sì, è in tour comunque. Quindi non è che. Va bene, infatti, non è il personaggio della settimana. Grazie Stefano. Grazie mille. Lo diciamo con una certa allegria, perché insomma, quando se indovinaste subito la prima telefonata, diciamo che sarebbe un po'. Ah, perché tu dici che dovremmo essere un po' tristi. Scusa, mi spiace moltissimo. Non hai invece vinto. Invece noi tutti i contenti. Non è lui, non è che lui. Che poi era bello dicendo Mengoni vincere i biglietti per il concerto di Ruggeri. Mi sembrava un bel link. Guido da Varese, l'abbiamo recuperato. Eccolo, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a voi. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Guido? Io volevo dare il personaggio, se possibile. Certo, sì, che è possibile. Uno che mi sembra abbia vinto questa settimana è David Cameron. Indubbiamente ha vinto le elezioni. Assolutamente. Ha sbaragliato i concorrenti, tra l'altro. Malgrado quello che si diceva, che fossero le elezioni più incerte degli ultimi 30 anni. Qui, inaspettatamente ha vinto. Diciamo che sei caduto nel nostro trappolone, perché ci aspettavamo. Ha vinto anche lui. Ci aspettavamo, anche il nostro personaggio ha vinto. E uno non che era non lui. Ha vinto sono io. Esatto. Beh, direi che hai detto la battuta migliore, quindi ti puoi candidare come autore del programma, giustamente. Grazie Guido. Grazie a voi, buona domenica. Beh, insomma, Cameron andava data come risposta, perché sicuramente il personaggio di questa settimana dal punto di vista dell'Europa. Se non la dava un ascoltatore, secondo me chiamava Cameron lui in persona, proprio. Diceva, sono io il personaggio. Ma Cameron o Cameron? Io dico Cameron. Si può dire anche Cameron, sono d'accordo. Queste sottigliezze linguistiche. No, sei tu che il non sono il mai censore. Esatte, perché bisogna. No, infatti. Prima ho detto link, ho detto adesso Alessio mi dice cosa dici link? Si dice collegamento, semmai. Hai Basta ragione. Che non dici book tour, perché book tour non si può sentire. Però continua il book tour, giustamente, visto che me lo ricordi, ho infilato in mezzo Bruxelles, ma in realtà vado anche a Asti, a Siena e a Torino al Salone Internazionale del Libro perché il 17. Ho detto maggio. Questa parola 800 24 00 24. Cari ascoltatori, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. È lo Yono Bo, stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, posteri e canzoni. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa con me, c'è qualche vada a farmi, ma non mi manca niente. Stamattina non mi manca niente, abbraccio a Gabriele, casa, dormo un po' che non sa dei miei problemi, non sa di questi schemi, non sa poi capitolo, tu c'è po' d'abbre. Un giorno buono di Rocco Hunt, un po' una canzone manifesto della Terra dei Fuochi, una delle tante emergenze ambientali italiane di cui non abbiamo parlato, a dire la verità, con il ministro Galletti. Ho pensato di fargli una domanda, poi non c'è stato tempo, che doveva andare via, abbiamo parlato d'altro. Però c'è una buona notizia, perché insomma un modo per farla rinascere, per farla rivivere, è anche quello di come dire, metterla in collegamento con un grande pezzo del patrimonio artistico italiano, gli Uffizi. Ci racconta tutto l'assessore alla cultura del comune di Casal di Principe, Mirella Letizia. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, insomma, ci sono pezzi degli Uffizi che sono in arrivo dalle vostre parti. Il tutto all'interno di uno spazio confiscato alla Camorra. Ci racconta tutto? Sì, sì. Allora, la mostra verrà allestita in un bene confiscato alla Camorra, nella casa pompastediana, quella gestita, affidata al comitato pompastediana. Sì. E in effetti partiremo il 21 giugno, la mostra durerà 4 mesi, quindi il 21 ottobre. 21 giugno, 21 ottobre. Allora, assessore, un attimo, perché la sentiamo male. Le come date se sono... chiamasse dallo spazio. Vediamo se riusciamo a recuperarla meglio. Allora, una mostra che inizierà il 21 giugno durerà 4 mesi fino al 21 ottobre all'interno di un bene confiscato alla mafia e dato in assegnazione ai comitati Don Peppe e Diana, e quindi diciamo è un'iniziativa che mette insieme varie realtà, insomma il comune, il comitato Don Peppe e Diana e gli Uffizi. Ce l'abbiamo l'assessore di nuovo, sentiamo se la sentiamo meglio. Letizia, Mirella Letizia. Pronto? Ci sente? No. È un weekend che va così con i collegamenti telefonici. È andata giù la linea. Come abbiamo già detto ieri, sì. Non siamo sponsorizzati sicuramente da una linea telefonica. Assessore, c'è in linea? Sì. Eccola. Eccoci. Magari lei ci sentiva. Adesso la sentiamo meglio. Eravamo noi che non la sentiamo bene. Quindi ci avevamo lasciato che ci stava spiegando questa mostra che durerà 4 mesi e che cosa conterrà. Sì. Allora, il tema scelto dai curatori scientifici, dal direttore degli Uffizi Antonio Natali e da Fabrizio Vona, sovrintendente ai beni culturali del Polo Museale Caserta, è la luce vince l'ombra, ed è il tema che sottende un po' tutte le opere, quasi a testimoniare e ad evidenziare il senso di resistenza di questi anni delle persone che, pur rimanendo a Casal di Principe, hanno cercato di non andare via, ma di lottare a che questa terra cessi di essere terra di Camorra, terra dei fuochi, per diventare la terra della resistenza. Beh, direi che il titolo in realtà è di una bellezza estrema, la luce vince l'ombra. In più, siccome sono quadri se non sbaglio di artisti che si ispirano a Caravaggio, quindi sia le opere d'arte sono esattamente dove la luce vince l'ombra, sia un po' il bene che vince contro il male, se possiamo dirlo. Sì, difatti sì. La luce, insomma, che quest'anno dall'UNESCO è stato dichiarato l'anno della luce, e quindi per noi ovviamente questa è una cosa che si è aggiunta a quello che era il tema, preponderante della mostra. E l'idea che gli Uffizi possano essere un pezzo di un percorso di rinascita e di ricostruzione del nostro territorio è importante sottolinearlo. Dal punto di vista dell'immagine sicuramente vi dà una bella mano, una delle eccellenze proprio italiane, il patrimonio artistico che si sposta, tra l'altro questo è un progetto degli Uffizi che va anche in altre zone d'Italia, non solo lì nella Terra dei Fuochi, sono state scelte delle zone dove diciamo si andrà all'esterno in gita alcuni pezzi degli Uffizi, e questo per voi è molto bello, però diciamo a che punto è questo momento di rinascita della Terra dei Fuochi, perché insomma c'è stato un periodo di grande attenzione anche mediatica in cui si è stati al centro per le rivelazioni del pentito, perché si è cominciato diciamo a prendere atto dell'inquinamento che c'è stato non solo camorristico ma anche proprio ambientale. Adesso si è messo in moto qualche cosa o passata l'attenzione diciamo è calato il sipario? Allora, no, Noi come amministrazione comunale, ovviamente, un po' per sensibilità pregresse a questa esperienza politica, un po' per i motivi contingenti, abbiamo puntato tutto immediatamente su quella che era la bonifica dei territori e sui rifiuti storicamente presenti a terra. Ne abbiamo sentiti 14 che da 30 anni erano strade completamente chiuse e rese inaccessibili alla viabilità, e abbiamo cominciato immediatamente a ripulire. Sì. Perché per ripartire da come ci dicevamo prima, dal senso di bellezza, perché è vero gli Uffizi, è vero la rinascita e la ricostruzione del territorio, ma è vero anche che noi siamo in frontiera senza uomini, non abbiamo personale, abbiamo un ufficio tecnico completamente chiuso. Quindi tutto questo con grande sforzo, ma con un senso di partecipazione attiva dei cittadini. Ma l'aiuto promesso dal governo, dalle istituzioni centrali, anche dalla regione, per bonificare anche la Terra dei Fuochi, è arrivato qualcuno di questi aiuti? C'è qualcuno che sta lavorando concretamente? Un intervento per la raccolta dei rifiuti che storicamente sono a terra, quindi che non si parla di bonifica, l'abbiamo avuto dalla regione Campania. Quindi che ci sta aiutando a ripulire il territorio in questi sensi, ma si parla di rifiuti abbandonati che sono stati, quindi non di quelli interrati. Noi abbiamo previsto in bilancio comunale una voce, seppure esigua, considerando che abbiamo trovato un comune in dissesto finanziario, per cercare di bonificare almeno le aree superficiali dove era presente amianto, però dobbiamo fare i conti con la burocrazia, con i bilanci, con lo spendere in dodicesimi e tutto quello che ne consegue. Va bene, una bellissima notizia, se posso dire. È veramente un perfetto si può fare questa notizia della mostra, perché ricordiamo che tutti i grandi musei portano in giro le loro mostre, però per esempio il Louvre decide di andare ad Abu Dhabi e invece gli Uffizi decidono di andare nella Terra dei Fuochi. Mi sembra una bella scelta, è una questione di scelte, e quindi mi sembra assolutamente un si può fare. In bocca al lupo a Casal di Principe e all'assessore Letizia alla cultura. Grazie per essere stata con noi, buona domenica. Buona domenica. Grazie. Casal di Principe ospita gli Uffizi, la sfida dell'arte contro Gomorra, e questa era la notizia. 800 24 00 24, cari ascoltatori, abbiamo forse un minutino per sentirne uno prima di chiudere. Sentirne uno per educarne cento. Gaetano da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Gaetano? No, era sul personaggio, della settimana. Ottimo, pensando un po' alla redazione che è un po' milanistofila, pensavo a Pippo Inzaghi, che ha vinto. Noi siamo milanistofili. Alla redazione si intende di Radio 24, li si può fare. Radio 24, Milan, che insomma è un tifoso milanista. Sì. Ma però questa è un'altra redazione, non tutte le redazioni sono milanistofile. Esatto. Però Pippo Inzaghi, che cosa vi sia? La partita di ieri ha vinto. Meglio che niente, lei dice. Dopo che non ne vinceva parecchie, per cui è una cosa rara. E quindi poteva essere una notizia. Infatti noi non siamo una redazione che tiene al Milan, e quindi non è questo il personaggio. Però grazie di aver chiamato. Grazie. Il prossimo indizio dopo il giornale radio delle 10, e naturalmente avremo in studio con noi, diciamo subito, Francesco Tricarico, che suonerà per noi. Vediamo l'ora dopo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Situazione. La situazione politica non è buona. La situazione economica non è buona. La situazione del mio lavandino non è buona. La situazione del mio amore non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è, c'è. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo e l'amore che ora abbiamo. La situazione dei piccoli cani non è buona. La situazione, la mia situazione non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Da te a me qualcosa che ci unisce c'è. Da, da, da. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo e l'amore che ora abbiamo. La casa che costruiamo, come la terra che calpestiamo, come la notte in cui dormiamo e come la notte che non dormiamo, la primavera che immaginiamo e l'emozione che inventiamo. Francesco Tricarico e Marco Guarniero alla chitarra, benvenuti. Grazie dell'invito. Benvenuti. Si può fare con noi un'ora insieme, la musica live, che bello. Allora, questa era La situazione non è buona, la celebre canzone che nasce da una collaborazione con Adriano Celentano. Francesco, adesso sei in giro con i Vulnerabile Tour, però diamo subito un paio di date. Mariano Comenzi eri venerdì scorso, il 20 giugno sarai a Pavia, tra l'altro passando per il ritiro di un premio tra qualche giorno, sì, a Genova, è vero? Un riconoscimento. Un riconoscimento, sono il miglior cantautore dell'anno. Complimenti. Grazie. Beh, un modo, grazie, bellissimo, grazie, per dirlo, sono il miglior cantautore dell'anno. Sì, mi hanno dato questo, questo premio. È il titolo del premio. Te ne sei accorto adesso, sembra? No, io non me ne accorgo, loro mi danno questo premio, mi fa piacere ricevere un premio. Perché fa sempre piacere, certo, ricevere un premio. Due parole su questa canzone invece, così, sulla situazione non è buona. Sì. di... Questa canzone è nata, io non l'ho pensata per Adriano Celentano, ho sempre detto che l'ho pensata per lui, invece l'avevo pensata per me, però si adattava molto. Però magari non glielo diciamo. Se ci sta ascoltando qualcuno glielo dice. Se qualcuno glielo dice. Come non glielo diciamo? Ma è una notizia questa, è la prima volta che dici questa cosa? Sì, non è così. Sta per uscire l'Ansa, ti avviso, sta per uscire l'Ansa e sei in radio, non è Claudia, che siamo in salotto tra di noi. Magari Claudia se la prende, la mori, ma Celentano secondo me no. Comunque è una canzone, a me ha fatto molto piacere che l'abbia cantata Adriano, perché è una persona, un grande artista, una grande sensibilità, una grande, ed è sempre stato voce dei tempi, è sempre stato, ha sempre accompagnato una certa cultura, no? La musica è cultura e lui ha sempre accompagnato determinati momenti storici dell'Italia. E secondo me è stato in grado di interpretare molto bene ciò che accadeva, e questo è un merito che va riconosciuto a lui e alla canzone e a tanti autori, e secondo me la canzone ritroverà la sua importanza, perché c'è bisogno che tutto ritrovi importanza. Adesso parleremo anche invece dell'ultimo disco del 2013, Invulnerabile, il tour che stai facendo, sentiremo anche una canzone, America, sicuramente un disco che qualcuno ha voluto anche così, diciamo, inserire un po' nel filone di chi cerca di guardare con ottimismo al presente, anche se la tua cifra stilistica è sempre anche molto eterea, quindi ci si può leggere dentro, ne parlavamo prima, non solo messaggi di, diciamo, di ottimismo, di si può fare, ma anche altre cose sulla nostra attualità. Però al bollino di si può fare questo disco. Sì, se dovessimo mettere il bollino di si può fare questo disco ce l'ha assolutamente. 800240024, cari ascoltatori, non ci siamo dimenticati di voi, perché stiamo giocando, stiamo cercando anche un personaggio della settimana, siamo partiti in quarta quest'oggi col ministro dell'ambiente Galletti, tra l'altro. Se volete commentare quello che ha detto, se volete giocare con noi, abbiamo Filomena dalla provincia di Roma, prima del traffico. Buongiorno Filomena. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei rispondere al personaggio della settimana. E noi siamo tutti orecchi. Chi è, secondo lei? Forse Allegri. Mm-hmm. Allegri. Ha vinto la notizia, la sappiamo, direi. Allora non è. Allora non è, direi. Ah, così mestamente, no. Si è già resa. È più intelligente di noi la signora. Allegri, giustamente. Ha praticamente vinto su tutto, sulle scommesse di ogni genere. Beh, sì, a parte sì. Lo ha stravinto per ora. Stravinto. Verissimo. Però ha vinto, era lui. Ma un bel trappolone, se vogliamo. Ma non ha vinto lei, come diceva prima. Da un certo punto, perché ancora non ha vinto in realtà. No, il trappolone era per lei, nel senso che ha detto. Avevamo pensato che potesse essere Allegri uno di quelli che ha vinto qualche cosa, ma il personaggio che abbiamo pensato non era lui. Grazie mille, buona giornata. Proviamo con Edi che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo sì dire, provare a dire il personaggio. Sì. Posso fare solo due secondi sull'ambiente, no? Sì, certo. Ho sentito sì il ministro Galletti. Allora, però non posso dimenticare qualche mese fa che c'è stato un tentativo di depenalizzare i reati contro gli animali. Contro, cioè, gli animali? Sì, c'è stato un tentativo. Io sono molto succinta a quello che vi dico, perché... Sì, però non è una cosa che riguarda proprio Galletti, credo. Comunque... Ma in che senso? No, comunque ambiente, e il governo ha fatto questo tentativo. Dopo, per fortuna, c'è stata una mobilitazione, non hanno toccato. No, era all'interno di una norma che prevedeva, diciamo, anziché il carcere, le pene alternative per reati minori. Sì. C'era stato inizialmente inserito anche, diciamo, la violenza sugli animali. Poi è stato tolto, quindi vabbè. Però questo non c'entra molto con Galletti. Ecco, c'è stato un tentativo sull'ambiente. Però di nuovo una buona notizia, perché non è andato in porto il tentativo, sì, quindi siamo contenti. Però bisogna stare attenti, ecco, questo era il discorso. Giusto. Allora, io provavo con l'Italicum. L'Italicum? Come personaggio? Sì, perché a volte voi fate dei personaggi. È verissimo. Siamo anche molto contenti che lei ricordi questa cosa, ed è anche il giorno giusto in cui ricordarlo, che noi a volte i personaggi non sono degli esseri umani in carne ed ossa, quindi accettiamo assolutamente perché la risposta. Perché l'Italicum però? Perché io non so se è una cosa buona, ma ha vinto, è stato il Presidente della Repubblica. È molto bello come lo racconta, perché forse l'Italicum ha vinto e abbiamo perso noi, questa è la cosa che ci chiediamo, ma comunque... No. spero di sbagliarmi, però le voci contrarie sono tante. Ci sono tante voci contrarie. L'Italia, come è stato firmato da Mattarella, è un sistema elettorale nuovo. Vedremo poi quando sarà applicato la prima volta come andrà a finire. Intanto limitiamoci. Beh, si può giudicarlo anche senza sapere come andrà a finire, perché non è a seconda di chi vince se è buono o non buono. Il sistema deve essere buono comunque, poi chi vince vince. Gabardini è esperto di sistemi elettorali. Beh, però Edi non era questo il personaggio a cui avevamo pensato. Grazie, anche se ci poteva stare, come no. Diamo un altro indizio, aiutiamo gli ascoltatori. Tocca volentieri a te. Tocca a me. Il nome, il di, questo nome personaggio... di questo personaggio ha un significato. Possiamo fare un esempio, un po' come se fosse Rosa, esatto, che significa anche Rosa fiore. Luxemburg, ovviamente. Esatto. Quindi cercate un personaggio che ha un nome che ha anche un significato, la parola, diciamo, che è il nome di questo personaggio. È un tentativo di aiutarvi, ma lo scoprirete verso la fine. È un po' complicato come forse indizio. Abbiamo complicato, forse abbiamo complicato ancora di più le cose. 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri interventi tra poco e poi di nuovo con Francesco Tricarico in studio ci canta un'altra canzone. Vai. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Non so se meglio me, non so se peggio me, è solo quello che c'è, soltanto quello che c'è, non è l'America, oh, ma forse meglio così, era impossibile qui, andare avanti così, non è l'America, l'America, l'America. Non c'è tra me e te, ti distrago un po' così, vuoi un buon vino tu e dai, dai. Scritta. Fai una gira a volta e fanne un'altra perché io voglio vedere il tuo bel viso com'è. E per non pensare voglio star qui con te per tutta la vita, pensare solo a te. Non so se meglio me, non so se peggio me, è solo quello che c'è, soltanto quello che c'è, e non è l'America, paia, ma forse è meglio così, era impossibile qui, andare avanti così, non è l'America, l'America. L'America. Francesco Tricarico e Marco Guarnerio alla chitarra. Di nuovo grazie per essere con noi. Grazie a voi. Per essere con noi e per cantare per i nostri ascoltatori live oggi in studio a Radio 24. Si può fare. Una canzone, questa che fa parte del tuo ultimo disco, Invulnerabile, un disco del 2013, il tour sta andando avanti ancora adesso. Una canzone nella quale si usa la parola crisi. Sì. La crisi è evidente, la crisi è Ma tocca a me, non so se tocca anche voi. Certo che sì, tocca a tutti. Anche a te. Sì. E, dal punto di vista economico, dal punto di vista di energie, dal punto di vista di voglia di ascoltare, ci si è chiusi molto in questi anni. Cioè, la paura tende a... In principio, però è forte la paura, perché all'inizio ti porta a chiuderti, poi una volta che sei chiuso o ti ammazzi o poi reagisci. Esci. Cioè, è brutto dirlo, ma ci sono state anche tante vittime in questa grande guerra, combattuta in altri modi, come ci dicevamo prima, una guerra economica, una guerra finanziaria, una guerra di banche, una guerra di grandi poteri, poteri diversi dai soliti, no? La distruzione è stata... diversa, di solito è una guerra combattuta con nuove armi, però le conseguenze sono state più o meno le stesse, per cui adesso c'è tutto da ricostruire. Secondo me è finito, insomma, è finito, perché a questo punto anche il vincitore inizierebbe a nuocere a se stesso. Quindi questa in realtà è una buona notizia, perché no, sicuramente quello, ottima, da quello che stai dicendo, nel senso che io sono d'accordo sulla questione della guerra, non so quanto sia realmente finita, invece tu stai dando in realtà una buona notizia, dici la guerra è finita, adesso è siamo in un dopoguerra. Non lo so. Secondo me è finita, perché bene. Perché sennò è finita, perché sennò le conseguenze sarebbero troppo distruttive, secondo me. Siccome siamo umani e l'umano tende comunque a avere un grande spirito di sopravvivenza, per tempo, tu dici, in qualche modo. No, sì, è fisiologico. Cioè, io penso che l'organismo tenda a sopravvivere alla sopravvivenza. Cioè, tra l'altro, il disco, il titolo Invulnerabile, è anche un messaggio di forza, di ottimismo. Invulnerabile ti rende, essere invulnerabile vuol dire essere, diciamo, impenetrabili alle nostre paure, per esempio. Sì, cos'è che ti preoccupa oggi? Hai detto la crisi di più. Perché hai scelto Invulnerabile? Invulnerabile era molto più intimo, era un augurio che io facevo a mio figlio nel momento in cui lui mi chiese, molto piccolo, mi chiese della morte, e io non sapevo bene come rispondere, e mi sono reso conto in quel momento che di per sé la cosa può essere interpretata in tanti modi. Io, essendo lui molto piccolo, mi auguravo per primo di trovare le parole giuste per non fargli avere paura di qualche cosa di cui nessuno, ma l'uomo più grande, lo ne sa nulla, nessuno è mai tornato, no? C'è qualche filosofo che diceva: nessuno è mai tornato per raccontare, finché sei vivo, quando sei morto è un'altra cosa, per cui non ci pensare neanche, perché nulla saprai, non c'è nulla, nessuno lo sa, neanche la persona che tu ritieni più saggia ti può dire con certezza cosa sia, può interpretare la cosa, per cui farne una cosa positiva. Però poi mi dissero: oh no, però non bisogna dargli troppe, bisogna dirgli che è meglio dirgli che va sulla nuvola. E cazzo va sulla nuvola? Dicevo, che cosa guarda la nuvola e pensa che le nuvole associa alle nuvole una cosa che può essere negativa? No, io avrei parlato a lui un po' più da adulto, però forse a 3 anni era meglio. Ma bisogna iniziare presto. Ormai no, bisogna io iniziare sono presto. Di questa idea che vadano subito considerati dei assolutamente con grandi menti, una delle grandi menti. E quindi che lo sono i bambini, rispettati, non presi in giro. Quindi, a proposito dei tuoi figli, in un'altra canzone dici a un certo punto, me lo sono segnato, il futuro dei miei figli è nelle verdure. Allora, e poi c'è tutto un altro pezzo, non so se la sentiremo questa canzone. Io l'avevo interpretata un po' anche come uno dei filoni che tra l'altro Si può fare, seguiamo, no? Un po' questo ritorno anche alla natura e a un certo modo di vivere attaccati. Torna ai paesi adesso, non si torna una volta ai paesi, si andava dal paese alla città. Anche adesso. All'orto di sussistenza, esatto. O comunque all'orto. Poi tu mi hai spiegato che in realtà questa canzone è la canzone di un ortolano in qualche modo. Sì, si torna agli orti, nella mia zona ci affittano anche gli orti, no? Si è tornati al piccolo orto e Voltaire, no? Il giardinetto. E comunque la canzone in questo caso parla di un fruttivendolo che spera che il figlio non faccia il dottore, perché vuole che faccia il fruttivendolo. Il suo lavoro. Quindi il suo lavoro, no? Le proiezioni dei genitori sui figli. E poi nella seconda strofa c'è un dottore che dice mai che facesse il fruttivendolo. Per cui erano un po' sempre delle considerazioni sul quanto si proietti sui propri figli, no? E tu, per esempio, i tuoi figli ne hai due, abbastanza piccoli, ti sei già fatto il film cosa faranno da grandi, se dovranno fare che tipo di professione dovranno fare? Sì, io spero che facciano l'avvocato, Il dottore, no, io spero che facciano. Scherzo, sto quello scherzando. Che vogliono. Spero che esatto, facciano quello no, che no, vogliono. Io spero che facciano quello che vogliono, ma ancora non ci penso. Ci sono vari step. Condivido molto questa posizione, anche perché penso, come ho scritto nel mio libro, però penso che noi deluderemo tutti le aspettative dei nostri genitori, e non importa perché sono le loro aspettative. Noi invece dobbiamo prendere in mano la nostra di vita. Quindi le aspettative dei nostri genitori, dei nostri amici, di chi ci sta intorno, non possono influenzare la nostra esistenza. No, le aspettative uccidono. Esatto. Non hai avere aspettative su chi vuoi, a chi vuoi bene, no? Cioè, esattamente. Sentiamo anche ancora qualche ascoltatore. Tra poco di nuovo con Francesco, ci canta delle altre canzoni sicuramente. Intanto Carla dalla provincia di Mantova, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Per giocare con il personaggio? Sì, esatto. Chi è secondo lei, Carla? Secondo io il nome purtroppo non lo so, non lo sì. ricordo, perché la notizia mi ha sconvolto subito e quindi il nome mi è sfuggito. Comunque secondo me è il bambino di 8 anni trovato nel trolley della valigia all'aeroporto. È una notizia, diciamo, una foto straordinaria che è girata parecchio in settimana. Ma che è la foto quella ai raggi X dell'aeroporto? Sì, sì, sì, esattamente. Che aveva colpito anche noi, naturalmente in negativo. Io mi chiedo anche se sia vero o se sia un fake quella foto del bimbo che viene scannerizzato, però insomma. No, no, è vera, Francesca, anzi Gabriella, no, anzi Carla. Sì. Sto sbagliando tutto. Non era il personaggio, non era lui. Grazie mille per aver chiamato. Grazie. Ci avevamo pensato perché è sicuramente sì. un'immagine incredibile che fotografa per l'appunto anche la questione dei migranti di cui parliamo tantissimo e in un'angolatura particolare, però è molto forte, forse troppo questa cosa qua, e abbiamo deciso di lasciarla che non parte. Fosse il nostro personaggio. Devo salutare Massimo Corradini che ci scrive su Facebook e dice che ci ascolta ricoverato al policlinico e chiede che le sue sofferenze siano alleggerite dalla nostra trasmissione, allora mi sembrava bello salutarlo. Massimo Corradini, ciao. Tanto più che oggi c'è Tricarico che canta per noi, quindi vai di leggerezza. Arriverà anche la vita tranquilla, quindi sì, tra poco. Rimani con noi. Sentiamo Gabriella che ci chiama da Bussero, buongiorno. O Bussero, provincia buongiorno. Di Milano. Bussero. Perfetto. Buongiorno. Buongiorno. Allora niente, telefono per il personaggio. Sì, sì. Pensavo alla bambina Marina, quella salvata sul barcone dai nostri italiani, dalla Marina italiana. Io non conoscevo questa notizia, devo dire la verità, però e quindi non Carlo e no? quindi non, no, è, non è il personaggio, perché il personaggio però, almeno adesso deve conoscerlo. Sì. No, nel senso che abbiamo visto diverse bambine salvate in realtà dalla Marina italiana. Ce la racconti questa notizia qua? Ma a questa bambina è stato dato, siccome è nata sul barcone, sì. per cui la mamma ha dato il nome di Marina, perché è la Marina italiana che l'ha salvata, Francesca, e poi un altro nome che non ricordo. Ah, molto bello! Lei è mamma, signora? Sì, di due bambini, due ragazze grandi. E allora le facciamo gli auguri, che oggi è la festa della mamma e finalmente ne approfittiamo. Tra l'altro, bravo Carlo, grazie, che ci hai pensato. Grazie, anche a voi. Ci mancherebbe, grazie, ci spiace, Gabriella. Non ha vinto il concerto per un Ruggeri, però ha vinto gli auguri. Adesso lo daremo un altro indizio. Che facciamo? Lo diamo già adesso? Vogliamo essere generosi? Sì, secondo me sì, anche perché non è facilissimo il personaggio di questa sì. settimana. La notizia è bella e il personaggio abbiamo è difficile. Detto che il personaggio, diamo un indizio che sbaraglia, va? È un personaggio che ha vinto qualche cosa, il suo nome ha un significato. A questo punto andiamo sul facile. In realtà non è un personaggio umano, ma è uno stato. È molto facile, eh? Sono stato generoso. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, ero un bambino che rideva sempre. Buongiorno la maestra, dice, oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorride, mi alzo, le vado lì vicino e ero contento. Le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo. Sai cosa mi dice? Neanche mi guardava, beveva il cappuccino, io non so con chi parlava. Dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri. Puttana, puttana, puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello. E poi io ho pianto e non so per quanto ho pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciatela negare. Prendetele la mano e portatela via lontano. E datele i baci, datele carezze, datele tutte le energie. Francesco Tricarico, io sono Francesco, grazie ancora. Grazie mille, bellissima. In questa canzone che insomma, ha dei riferimenti autobiografici, sì. Si sa notoriamente che ti ha reso tra l'altro celebre al grande pubblico, era l'anno, vediamo se lo trovo, 2000 un Sanremo. Sanremo era, 2008, no, no, era un vita notturno, tranquilla. Vita tranquilla. Scusa, sì. Era l'anno 2000, sono passati già... Non lo diciamo. Quindi, una canzone che ha conquistato insomma l'immaginario di tutti noi, perché vogliamo parlare anche di scuola, anche se il riferimento è un po' cattivello qua, diciamo, all'insegnante, perché vabbè, puttana la maestra, però meritato, non era cattivo. Mi sembra bella la puntualizzazione. Tra l'altro io ho un aneddoto personale. Ho un mio carissimo amico, i miei amici dell'infanzia, che ha i genitori separati, e anche lui si trovò a fare il tema sulla famiglia e fece tutto un tema straordinariamente complicato, perché poverino dal suo punto di vista non riusciva a... Ma non vanno dati, non vanno dati. E queste dati, sono cose che si facevano. Forse oggi c'è un po' più attenzione su queste cose qua. Nella settimana in cui si è parlato molto di scuola, con le proteste degli insegnanti sulla riforma della buona scuola, sono ore tra l'altro in cui si sta trattando tra rappresentanze sindacali e il governo, ma a inizio settimana forse avremo una versione definitiva di questa riforma. Abbiamo raccolto un punto di vista di particolare che ci ha colpito all'interno del mondo della scuola, ed è quello di Esther Gratton, ex professoressa madrelingua francese al liceo Pujati di Sacile Pordenone, diventata nel frattempo bidella in un asilo. Buongiorno e buona domenica, Esther. Buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Parte in francese. Ma che bello accento francese. Lei è francese. Buongiorno. Tra l'altro, proprio una madrelingua francese che poteva essere utile per insegnare nelle scuole italiane, lei è uscita di graduatoria a un certo punto e ha deciso di entrare in un'altra graduatoria, quella dei bidelli, perché di un lavoro aveva bisogno. E questa è una storia, ce la vuoi raccontare? Sì, è arrivata un'altra docente con più punteggi di me in graduatoria e quindi sono stata licenziata e mi sono messa a lavorare come bidella. Ma nel frattempo, insomma, ma nel frattempo, io quello che mi chiedo, nel frattempo lei può aspettare e quindi continua la graduatoria e potrebbe essere assunta in un'altra scuola in un altro momento. È in questa fase di attesa, lei intanto, invece che stare a casa, decide di fare la bidella. Esatto. Perfetto, la bidella più preparata del mondo, che sa anche il francese e che aiuta gli studenti a fare i compiti. Ah no, non sono studenti, perché è in un asilo, questo... giusto? Come? Lei è in un asilo, fa la bidella in un asilo. Sì, ci sono asilo, commesse più preparate degli insegnanti. Esatto, questo è Tricarico che viene in suo aiuto, in suo soccorso. Come ha vissuto però, Esther, questo passaggio? Insomma, non da poco, spesso si parla, diciamo, di dignità del lavoro. Lei insomma è una precaria e appunto tanto che si è ritrovata a dover cambiare lavoro. Come l'ha vissuto? Io l'ho vissuto benissimo, perché secondo me bisogna vivere la vita positivamente. Ecco, questo è un messaggio che io già questo me lo appenderei in camera per tutta la vita, perché insomma, al di là dei problemi della scuola, giustamente bisogna formare per bene gli insegnanti che non siano precari, eccetera, eccetera. Però la scelta personale di Esther, secondo me, è eccezionale, perché dice: cosa dovevo fare io personalmente? Ho trovato un altro lavoro e in qualche modo sono felice. Sì, esatto. Ha già detto la cosa più bella del mondo: bisogna vivere la vita positivamente. Ma cioè, i suoi familiari, per esempio, gli amici hanno detto: no, ma come, a cosa fai, rinunci così, lotta, prenditi un avvocato, fai un ricorso ed entra in graduatoria anche tu? No, non è questa la vita che vedo per un futuro. Giusto, e non era nemmeno in piazza a protestare, abbiamo letto, perché, esatto, perché per potevo. Quale motivo? Non potevo, dovevo essere all'asilo, i bambini avevano bisogno di me. Beh, questo è un po' per tutti i lavoratori. Quello che ci chiediamo è se secondo lei la riforma della scuola, lei la ritiene una riforma positiva oppure no, oppure decide di non protestare perché comunque forse non è il momento, o uno non vuole nemmeno perdere i soldi di una giornata, per esempio. Allora, secondo me protestare oggi come oggi non è il momento, perché viviamo un momento storico. Penso quando aspettiamo protestare? Quando è che allora bisogna protestare? Ma c'è qualche dissenso, Esther, sulla sua posizione di non protestare, però insomma, ognuno Tricarico ha detto che invece è il momento, Francesco. No, ma non lo so, se io devo fare, io scelgo di fare l'insegnante, non riesco a farlo, di solito mi arrabbio, poi faccio quello che voglio per vivere, io anche ho pulito le case, però io volevo fare altro. Nel momento in cui era difficile fare questo, mi rendevo conto, ero molto incazzato per questo. Non è che mi va bene tutto, per sopravvivere mi va bene tutto, però non mi va bene poi che uno dica: ma no, i bambini certo che hanno bisogno di una commessa che li aiuti a entrare in classe, però hanno bisogno anche di altre cose, di insegnanti che abbiano i pennarelli per far disegnare i bambini, che mio figlio fa i disegni in verdi e marroni e la maestra mi dice: mi scusi, c'è solo il verde e il marrone, cioè è già qualcosa, non Francesco, diciamo più perché... cazzate, che voglio dire. E il bello sarebbe poi invece un analista che dice: suo figlio deve essere triste perché fa disegni solamente in verde e marrone, e beh, dice, magari, no, ma poi, c'è, non è magari quello... poi c'è anche quello, per cui che ognuno venga rispettato nel suo lavoro, che abbia dei diritti, che venga tutelato, eccetera eccetera. Poi è chiaro che va bene tutto per sopravvivere. Ma soprattutto anche la questione la prostituta, è capire... anche prostituirsi, voglio dire. Però è capire se uno dice: non è il momento di protestare. Prego signora. Sentiamo Esther. Sì, beh, non apprezzo neanche che questo signore che dice. Lei sta parlando a... Chi si permette di dire una cosa del genere? Io mi permetto di dire quello che voglio, come voglio. C'era chi ha detto io mi batterò per la sua libertà e dica quello che vuole, io mi batterò anche se sono contrario. Cioè, voglio dire, c'è la filosofia e fior fior di letterati sono battuti per il diritto di parola. Credo che ci siano punti posso di vista dire quello che voglio, diversi. Come voglio, noi anzi l'abbiamo invitata come perché permette, rispettiamo il suo punto di vista, altrimenti certamente non l'avremmo invitata. Almeno io sicuramente personalmente. Però cosa voleva aggiungere qualcosa su questo? No, non aggiungerò niente. No, ma però io scusi, però mi tolga la curiosità. Usciamo fuori da questa cosa. Ma non è una polemica, non mi usciamo sembra... fuori da questa cosa, che ognuno ha detto quello che pensava. Ma, certo, e va bene così. Ma come si dice oggi, bidella o commessa? Perché anch'io una bambina di 3 anni e mezzo, quando andavo io erano i bidelli, adesso si chiamano i commessi. No, si chiamano i collaboratori scolastici. Ok, però lì a Pordenone come dite, diciamo più familiarmente, usate anche altre espressioni tipo bidello, commesso o no? Il bidello, ma bidello. Vedi Francesco, perché bidello, la bidella, ma sì, voglio dire, siamo collaboratori scolastici, questa è la parola giusta. Va bene. Grazie. Ottimo. Per essere stata con noi, Esther Gratton da Pordenone. Questo era un punto di vista, una storia tra le tante che potevamo raccogliere in questa settimana in cui si è parlato molto di scuola. Avete già sentito abbondantemente in tutti i talk show il punto di vista degli insegnanti e quello del governo, e quindi diciamo era anche così difficile andare a trovare un punto di vista diverso la domenica per parlare sempre anche di questo argomento. Francesco, ti sei accalorato, hai 2 figli piccoli che stanno andando a scuola, però, e la scuola tutto quando bene, il genitore porta i figli a scuola, poi poi inizia un percorso e ritrova la cosa pubblica, ritrova il tema della scuola come proprio centrale, no? Perché magari uno se lo dimentica. È fondamentale il tema della scuola, è fondamentale per la formazione, perché si creano le basi di uno Stato, cioè lo Stato crea le sue fondamenta, la sua forza, crea il suo futuro partendo dall'asilo. Che idea ti sei fatto di questa riforma della scuola? Sinceramente non ho avuto tempo e modo di conoscere, di approfondire, però dici rispetto chi è andato in piazza a protestare, perché avrà avuto le sue ragioni. Penso che nessuno si diverta se va in piazza avrà delle ragioni che non trovano altro modo di esprimersi. Ma infatti era questa la questione, è libero di fare... A me interessava capire se la signora dice non vado in piazza perché non è il momento giusto, è un conto. Uno può anche decidere che pensa che questa riforma sia buona, era su questa la questione. Io non penso che ci siano i momenti buoni, i momenti non buoni per protestare, nel senso che se c'è un'emergenza uno deve protestare e va e protesta. No, ma poi parla invece per te stesso, no? Forse parla la per signora te stesso. Invece riteneva buona la riforma e a quel punto ci sta, nel senso che non è che tutti debbano essere contro questa riforma. Certo, ma la signora però parlava al plurale, esatto. No? Ha parlato al plurale, allora io mi sono sentito coinvolto. Se avesse parlato per se stessa io non sarei intervenuto. Allora, tra molto poco bene. Francesco ci canterà. Anche perché vuole una vita tranquilla, Francesco. Esatto, un'altra bella canzone, adesso c'è il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Con tanti Francesco auguri a tutte le mamme. Marco Guarnero in studio, tra poco sentiremo un'altra canzone. Abbiamo un po' trascurato i nostri ascoltatori, recuperiamo subito. Ileana da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Su cosa volete intervenire? Bene? Sì. Benissimo. Sul quiz. Perfetto. Qual è la risposta? Me la risposta è la Liberia. La Liberia. Perché ha sconfitto l'Ebola. È perfetto, mentre stava dando la motivazione, ovvero che ha sconfitto l'Ebola qua. Perché l'ONU dice che da 40 giorni non ci sono più contagi. Esatto. È esattamente il nostro si può fare. Ha avuto un sacco di morti, ha avuto un sacco di morti. Sì, sì, sì. La felicità di Ileana e anche quella dei liberiani, naturalmente. Grazie per aver giocato con noi. Complimenti. Biglietti. Complimenti auguri, per aver vinto. Grazie altrettanto, auguri. Grazie. E allora, il gioco l'abbiamo sistemato. Il gioco l'abbiamo Felici sistemato. Di avere dato il premio magari anche ad altri ascoltatori che hanno risposto correttamente. Andiamo in ordine, diciamo, di arrivo della risposta. Daremo anche daremo loro qualche biglietti. Altro biglietto. Adesso dobbiamo andare sul crowdfunding. Adesso andiamo sul crowdfunding. Ma cambiamo la canzone di introduzione. Così. Sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto? Io voglio una vita tranquilla, la, la, perché da quando sono nato che sono spericolato. Oh. Io voglio una vita serena, la, la, perché da quando sono nato che è disperata. Francesco Tricarico, bellissima, la vita tranquilla. Adoro questa qualche canzone. Modo anche i protagonisti della rubrica di Federico Taddia sono alla ricerca di una vita tranquilla. Il crowdfunding, ciao Fede. Eccoci qua, buona domenica. Sei ciao, contento Federico. Che ti abbiamo introdotto così in maniera magistrale quest'oggi? Molto, molto. Live. Dove ci porti quest'oggi? Ma allora vi porto due progetti molto rapidi, visto che il tempo non è tanto. Il primo vi porto sulla via Emilia, sì, perché sabato e domenica prossima si tiene uno strano esperimento messo in piedi da due ragazzi della web magazine Converso, che hanno deciso di percorrere l'intera via Emilia in chiave Expo, quindi da Rimini a Piacenza, quasi 300 chilometri, visitando tutti i bar presenti sulla via Emilia. Vogliono fare piedi? Un reportage? No. Beh, no, stupendo. Non ce la fanno. A bere birrette. Beh, è il più bel tour di sempre, tutti i bar. Sì, beh, in fondo ci sarà un'ambulanza a raccoglierli. No, ma loro non vanno a bere, loro vogliono tastare, testare l'ospitalità, sì, l'ambiente, la creatività. Vogliono fare proprio una guida, un manuale, daranno anche un loro voto. Si chiama I migliori bar della via Emilia. Però vanno nei bar, non è che vanno nelle mercerie, quindi qualcosa verranno. E chiedono, Federico, chiedono una mano, come possiamo dargliela? 2500 euro è il costo dell'operazione, appunto essendoci anche un documentario, ci sono un po' di materiali da attrezzare. Come sempre le ricompense non sono niente male, cappuccino e spritz è il sottotitolo ovviamente di questa impresa, e si può dare attraverso brevi piccole donazioni, 10 euro la ricompensa, 10 euro il ringraziamento, 30 euro ringraziamento più adesivo, 100 euro un cocktail con il loro nome realizzato da uno dei bar, per 600 euro si può andare a fare il viaggio con loro, che non è male. Fede, avevi annunciato due segnalazioni, però alla prossima, teniamocela per settimana prossima, perché dobbiamo chiudere e vogliamo salutare anche i nostri ospiti in studio, e quindi col crowdfunding ci risentiamo domenica. Buona prossima domenica. Grazie Fede, un abbraccio, ciao. Allora, manca un minuto, voglio ancora ricordare una cosa. Tricarico sta preparando un nuovo disco, anche uno spettacolo teatrale, tra l'altro. Sì. Si possono dire queste cose? Si possono, si devono dire. Si devono dire. Io approfitto. Il spettacolo teatrale è un linguaggio diverso, no? Bello. Teatrale? Il linguaggio teatrale è diverso. Beh, insomma. È molto. E verrà uno spettacolo teatrale molto divertente. Ma adesso ci tengo a sottolineare che esce un singolo estivo. Ecco, come si chiama? Che si chiama La Mela. La Mela. E mi auguro che possa piacervi. Che come sempre vada ad anticipare poi un disco che arriverà. Un disco che arriverà a settembre con lo spettacolo teatrale, dove noi sorprenderemo. Penso che inizieremo da Milano, La Scala forse. Ma La Mela parla di America o di Apple? No, la mela è molto diversa da tutto ciò che c'è stato prima. Ok. Apre un nuovo orizzonte. Dobbiamo chiudere. Viva la mela. A Francesco Tricarico e a Marco Guarnero, che ha suonato la chitarra. Ringraziamo anche Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Alessandro Longoni oggi in assistenza in diretta. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Sì signori, tanti saluti, ciao a tutti e a tutte le mamme, ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio, ciao.